24 di Giovanni Minoli. Buongiorno. Bentrovati. Ieri c'è stata la direzione del PD, ma cosa è capitato veramente è difficile da dire, sembrata anche un pochino una riunione di extraterrestri per chi è normale. Senatore Miguel Gotor, buongiorno. Ecco, prima di sentire da lei questa la spiegazione di quello che è capitato ieri, le voglio far sentire cosa ci ha detto Bersani qui 10 giorni fa. Lei ha approvato la riforma, però poi ha detto no, poi adesso sembra il campione del ni. Oggi a che punto? Io ho votato contro, non ho votato la fiducia sull'italico. No, ma sto parlando della riforma. Io ho votato la riforma. Sì. Il fascino del no sta in questo. Col no salta l'italicum, sì. Ok? Benissimo. E se uno pensa che il problema sia quello, ma un problema serio, con quel che succede in Europa e nel mondo, problema serio, allora è portato a dire, come dico io, o me lo togli, questo problema. E lui dice adesso discutiamone. Discutiamone, sì. Lei dice che fa il furbo, sì. Ci crede alla discussione o no? Ma io credo ai fatti. Ecco, lei, senatore Gotor, ci crede alla proposta di Renzi di discutere oppure no, dopo il referendum? Io, come dire, apprezzo da sempre San Tommaso. E di conseguenza sono necessari i fatti. Ieri il Presidente del Consiglio ha fatto melina. Ha fatto una proposta, diciamo, no? No. Ha fatto sì, ma che sui due punti cardine, cioè? È assolutamente insufficiente. Prima sostiene di cambiare la legge elettorale, ma dopo il referendum. Beh, prima invece, sarebbe difficile adesso, no? No, ci sarebbe tutto il tempo se si volesse mettere la stessa volontà politica ed energia che si è messa nel varare l'italicum. Quindi lei non ci crede alla proposta, diciamo, non ma ci crede. Una comune saggezza popolare suggerisce prima di vedere il cammello. E poi c'è una seconda questione che è tutta politica. Lui nega che ci sia una negazione, che ci sia, scusi, un rapporto tra la legge elettorale e la riforma del Senato. Ha continuato a definire anche nella replica un alibi. E così non è. E di conseguenza i problemi restano del tutto. Senta, ma senatore Gotor, ma lei con Bersani l'ha votata in Parlamento la riforma della Costituzione o no? Sì o no? Sto rispondendo. Io ho votato la riforma del Senato e non ho votato l'italicum. E ho votato la riforma del Senato nella convinzione che fosse un abito pieno di buchi e di macchie che ho provato a rammendare, ma nel momento in cui mi viene detto di indossarlo come cittadino e come parlamentare, ecco, io non me la sento, se rimane l'italicum votato. Quindi lei dice la riforma della Costituzione non la voto se non so prima come sarà cambiato l'italicum, per capirci con chiarezza, è questo, sì, no? Se non cambia prima l'italicum, almeno in un ramo del Parlamento, ma non poi in astratto, se diciamo cosa fare. Sì, cosa bisogna fare? Abolire il ballottaggio, che trasforma una minoranza di voti in maggioranza di seggi. Oppure che fa votare due volte i cittadini. E che servono, e che, sì, ne dico il secondo, tra l'altro questo è un limite, nel senso che li fa votare, è qualcosa di simile alla Repubblica di Weimar, cioè in 15 giorni li fa votare due volte, in realtà su due diverse proposte elettorali. Quindi figuriamoci. Però al di là di anche in Francia si fa così. In un sistema semipresidenziale, e non ci sarebbe problema, perché questo significa definire i contrappesi e gli equilibri istituzionali. In Francia quando si elegge il presidente, cioè il capo monocratico, non si elegge anche il Parlamento. Questo avviene in un secondo momento, e così anche in America un sistema presidenziale. Senta, noi eleggeremo il nuovo presidente e soltanto 2 anni dopo eleggeremo, quindi, i parlamentari. Senatore Cottoro, con il ballottaggio dell'Italia, ho capito. Invece, abbiamo un capo che trascina la propria rappresentanza parlamentare. Senta, e senatore, il principio liberale, che è quello del rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo. Senatore Cottoro, lei capisce con chiarezza che agli occhi delle persone normali e semplici la vostra sembra essere solo una questione personale contro Renzi, più che una questione politica, cioè se ne deve andare, questo è il punto. Io ho fiducia nelle persone che hanno gli occhi normali, perché anche io ho occhi normali, sì. E le posso dire che per quanto riguarda questo tema non ritengo che una eventuale vittoria del no al referendum, come auspico, debba portare alla caduta del governo Renzi. Questo è il frutto di una personalizzazione impropria e indebita, un errore compiuto dallo stesso Premier. Senta, senatore Cottoro, lei a questo punto vede una scissione all'orizzonte oppure no? La dà, quanto la dà? Dal mio punto di vista la do all'1%, cioè la escludo. E la escludo anche perché stiamo parlando di Costituzione, e lo statuto del Partito Democratico prevede libertà politica e di coscienza su questo tema. È stato anche quello un errore da parte di Renzi di mobilitare tutto il partito, pensi alle feste dell'unità, su quell'opzione, schiaffeggiando centinaia di migliaia di elettori di centrosinistra e di militanti del PD che già sono per il no, ma vorrebbero e vorranno continuarci a votare. Se... comunque, dal mio punto di vista, nessuna scissione, perché sarebbe un errore. Quindi, per lei, io voto no e Renzi non si deve dimettere se vince no. Questa è la sintesi, diciamo. Sintesi perfetta. Perfetta. Senta, c'è Mario Secchi che vuol fare una domanda. Sì, buongiorno, dottore. Buongiorno. Domanda secca. Legge elettorale nuova con il proporzionale? Guardi, io sono affezionato al sistema maggioritario, un sistema maggioritario che deve avere un premio di maggioranza ragionevole e quindi non abnorme come quello dell'Italicum, che potrebbe arrivare anche a 30 punti di percentuale. Sono importanti i collegi uninominali, che si devono formare dal basso, perché dobbiamo restituire ai cittadini il territorio, deve comandare, senta, di scegliere i propri parlamentari. Senatore Cottoro, per chiudere, Cooper lo dice che si dimette se non cambierà la legge, lo farà anche lei? No, io non ne vedo il motivo, e del resto, e peraltro tutti sanno che le dimissioni che sono presentate dai devono poi essere accettate, in realtà sono una finzione, vengono respinte, vabbè, quindi normalmente cerchiamo di stare alla sostanza delle cose. Se, grazie senatore Cottoro, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Un'ape per tutti, l'anticipo pensionistico per tutte le categorie di lavoratori. Sarà assopito un pescatore. Per farlo dovrà chiedere un anticipo sotto forma di prestito, che poi restituirà sulla pensione normale in 20 anni. Due occhi grandi da bambino. Per i lavoratori precoci, consentire l'accesso alla pensione con 41 anni di contributi. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno. E così i nati tra il 1951 e il 53 potranno lasciare il lavoro 3 anni e 7 mesi prima del previsto. E chiese al vecchio, dammi il pane. Per coloro che avranno un reddito superiore a 750 euro ma fino a 1000 euro scatterà l'importo della 14ª mensilità. Dunque, la corsa alla pensione e il rapporto tra la politica e i ceti produttivi del paese sono temi centrali, e naturalmente sono temi caldissimi in questo momento. Emanuele Massagli, è il presidente di ADAPT, l'associazione fondata da Marco Biagi e docente di welfare della persona all'Università di Bergamo. Ecco, professore, comincio con una domanda semplice, forse anche ingenua, ma per noi è fondamentale. Il sistema pensionistico attuale quanto potrà reggere ancora? La Ragioneria Generale dello Stato ha recentemente detto che la sostenibilità finanziaria del sistema è garantita dopo le riforme del 2012. Quindi stiamo tranquilli, almeno allo Stato. Sì, avremo ancora un innalzamento del rapporto tra la spesa pensionistica e il PIL per qualche anno e poi andrà a decrescere da qui ai prossimi decenni. La domanda è la sostenibilità sociale più che quella finanziaria. Naturale. Ecco, ma l'APE, cioè l'uscita dal lavoro anticipata, in realtà conviene o no? Ma la volontaria e quindi la scelta del singolo di uscire o no ha dentro fattori di scelta che non sono solo economici, per cui può convenire da un punto di vista. Ma a chi può convenire secondo lei, dal suo punto di vista? Stando a quello che si legge dal verbale fatto tra il governo e i sindacati, conviene soprattutto alle categorie di disoccupati, degli usuranti o di chi ha una qualche malattia o ha qualche parente a carico, perché per questi non è costoso. Ecco, per i lavoratori che devono pagare invece non è così. Non conviene, ecco, ma potrebbe alla lunga essere molto costoso in realtà? Sì, anche se nell'accordo si dice che il prestito viene restituito in 20 anni, 20 anni è una durata molto lunga, sì. Però chiaramente essendoci un vincolo di non dover incidere sostanzialmente sul bilancio dello Stato, per forza di cose è abbastanza costoso. Senta, perché... ma professore, ma dove sta scritto che i posti di lavoro dei pensionati che vanno via in anticipo verranno occupati dai giovani neoassunti? Non è scritto no, da nessuna parte? Da nessuna parte, da nessuna parte. Quindi, questa è una teoria che viene propaganda. Sostenuta in economia, ma da dottrina minoritaria. Certo, tra questa dottrina minoritaria c'è anche il presidente dell'INPS. Senta, ma la maggior parte degli economisti non sostiene questo. Senta, però come per il DEF mi sembra una cosa che c'ha molto ottimismo, ma insomma bisogna sperare, anche un po' pregare. Sì, sì, sicuramente. Più che ottimismo probabilmente c'è anche un pochino di opportunismo, perché è un accordo col sindacato su dei temi che al sindacato piacciono molto. Certo, senta, ma noi colpisce il fenomeno in generale. Il governo stanzia denaro per il pubblico impiego, per i pensionati, per i pensionandi e le briciole alle imprese e allo sviluppo. Ma c'è una contraddizione lì? Sì, c'è una contraddizione e secondo me probabilmente si vedranno anche i limiti di questa modalità di intervento. C'è una contraddizione anche all'interno dello stesso governo, perché questo era un governo che aveva iniziato il suo percorso dichiarando di non voler concertare e contrattare nulla. Infatti, con appunto. Le parti sociali. Ecco, senta, noi però se siamo concreti, le cifre sulla disoccupazione giovanile, lo sappiamo tutti, sono micidiali e pare che quel poco lavoro che ci sia per i cinquantenni o ultra cinquantenni. Ma può riassumere in due parole lo scenario qual è? Negli ultimi anni la disoccupazione giovanile non è migliorata, sostanzialmente è in calo dall'inizio della crisi. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale si calcola che quasi il 70% dei posti di lavoro persi è un posto di lavoro under 30 o under 35. Quindi è drammatico. È la categoria che ha subito di più la crisi, anche perché sugli altri ci sono stati comunque gli ammortizzatori sociali. In Italia durante la crisi noi abbiamo speso quasi 80 miliardi di ammortizzatori sociali. Senta, questo ha garantito il reddito dei padri, ma ha scoperto il lavoro dei figli. Ecco, ma com'è possibile? Di fronte a questi numeri il governo alimenta la corsa alla pensione, distribuisce denaro ai dipendenti pubblici, cioè alle categorie che in questi anni sono state meno toccate, l'ha detto anche lei adesso, dalla crisi. Sì, è anche un po' più facile trovare delle soluzioni per loro, perché trovare una soluzione per la disoccupazione giovanile è certamente molto più complesso. Cioè è più facile e più elettorale anche un po', per essere cattivi? Indubbiamente, diciamo che poi il pessimo andamento demografico italiano fa sì che il numero degli over 50 sia in proporzione molto più elevato di quello degli under 30. Quindi anche questo risvolto, diciamo. Anche Job Act ha mostrato però dei limiti, pur essendo una scelta positiva. Quanto sono costate in realtà le decontribuzioni per ogni posto di lavoro creato? Quanto sono costate? Ha dei numeri? Sì, più o meno nei primi 12 mesi il costo è stato di quasi 8 miliardi, che vuol dire in proiezione 23 miliardi se tutti i posti continuassero per 3 anni, ma realisticamente la stima degli uffici dei parlamentari è di 18 miliardi, gli occupati in più sono stati 184.000, vuol dire sostanzialmente quasi 60.000 euro per posto. 60.000 euro a posto di lavoro è costato il Job Act, forse darglieli e basta era meglio. L'andamento... È costato molto anche perché, attenzione, era la decontribuzione valeva per tutti, indipendentemente dalle caratteristiche del lavoratore, per tutti gli assunti a tempo determinato. Questo ha fatto sì che venissero assunti razionalmente i lavoratori comparativamente un po' più produttivi, che non sono i giovani, ma che sono lavoratori con già esperienza. Ma ecco, però con l'evoluzione del o l'involuzione oppure la stagnazione del mercato del lavoro che c'è, cosa devono aspettarsi i giovani che stanno cercando un posto di lavoro? Niente, di andare via, come abbiamo visto che stanno andando in massa. Beh, il numero di quelli che esce è crescente, il che di per sé non è un dato neanche così negativo, ma soprattutto un dato anche molto comprensibile. Non devono aspettarsi granché dallo Stato, secondo me, cioè devono scommettere sulle loro competenze e conoscenze. Devono immaginarsi imprenditori di se stessi, insomma. Sì, scommettere molto su formazione e su una formazione anche applicata, per cui molta alternanza tra studio e lavoro. Senta, ma se lei fosse stato ministro del lavoro al posto di Poletti, quali provvedimenti avrebbe portato avanti? Io avrei scommesso ancora di più, un pochino lo fa la buona scuola, ma in modo disorganico rispetto alle riforme del lavoro, avrei scommesso molto di più sull'integrazione tra formazione e lavoro, per cui sull'incominciare a far conoscere il mondo del lavoro ai ragazzi già da giovani, di modo che entrino nelle imprese, sia più facile per le imprese assumere dei ragazzi che non incontrano il mondo del lavoro per la prima volta a 20 o a 25 anni, se l'ha fatto l'università come in Italia. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS Mario, insomma integrazione scuola-lavoro, questa è una strada effettivamente che i paesi più avanzati percorrono con decisione. Sì, beh, da noi tu lo sai che c'è il freno ideologico, certo. Mai e poi mai l'impresa nella scuola o la scuola nell'impresa. No, invece è una strada da... Invece è l'unica. Posso aggiungere una cosa? Certo. Lo scenario di Massagli è perfetto e secondo me è drammatico, è quello di un paese per vecchi, e anche qui è una questione sia ideologica, culturale, ma soprattutto elettorale, perché da noi è un ciclo continuo di elezioni che si ravvicinano. E quindi si va a cercare il voto più che la soluzione dei problemi. Stiamo distruggendo letteralmente l'avvenire dei giovani, dei figli. È una cosa secondo me incredibile. Non si investe sull'industria. No. Però Mario, Pietrangelo, tu fai spessissimo metti l'accento molto spesso sulla problematica dei cinquantenni, no? In realtà però i numeri dicono che i cinquantenni sono quelli che ritrovano il lavoro se lo perdono. Guarda, non lo so, l'esperienza personale ti posso dire che fino a ieri ho avuto notizie di altri due amici cinquantenni che sono stati licenziati. La proletarizzazione del ceto medio è in uno stadio ormai avanzato, perché è venuto a mancare intanto la capacità di creare lavoro e di dare... Questo è il punto, sì. Ma questo è venuto a mancare anche perché, prima ne faceva riferimento anche Mario... E tutto il meccanismo di rapina che è stato messo in atto nella società è diventato ormai una consuetudine, per cui si taglia inesorabilmente, non c'è più neppure l'apporto di quello che potevano essere anche bene o male le clientele che riuscivano a dare soprattutto nel sud comunque un pezzo di pane a tutti. Ma a questo si aggiunge anche una considerazione, che la parte più forte della società, quindi le giovani energie, immaginiamo dai 30 ai 40 anni, sono considerati adolescenti a tutti gli effetti, perché sono nella trappola del precariato, perché i ragazzi sono costretti a scapparsene via dall'Italia, anche perché poi chi ha le responsabilità, la maggior parte dei quali sono quelli che poi ci fanno la morale, sono gli stessi che nella possibilità di dare lavoro danno lavoro in condizioni di vero e proprio schiavismo, non garantiscono nessuno, non danno la possibilità neppure, l'abbiamo raccontato l'altra volta, alle ragazze di consentirsi il lusso di vivere la propria vita, di avere dei figli, perché vengono licenziati. Certo. Ma la responsabilità è anche di molti soloni che ci fanno la morale dall'alto della cattedra liberale ad avere creato questa società totalmente senza più diritti. Tu lo sai che c'è un vecchio detto: chi critica i consumi solitamente ha già consumato. Sì, sono tutti, guarda, tutti posso dire, tutti gli editorialisti che ci fanno la morale sulla società liberale, sì, sì, sulle necessità del mercato, sono tutti garantiti. Non hanno mai rischiato niente. Ma adesso vedremo con nuovi editori, secondo me ci saranno delle sorprese in giro. Io li vorrei vedere tutti sul libero mercato, questi, per capire che cosa... Vabbè, lasciamo stare. Giorgio Tonini è il presidente della Commissione Bilancio del Senato e membro della segreteria del PD. Ecco, senatore Tonini, a lei faccio una domanda secca. Perché il governo sta inseguendo questo piano per la pensione anticipata? Sta cercando di risolvere alcune situazioni di difficoltà prodotte dalla riforma Fornero, che ovviamente è stata una riforma dolorosa ma necessaria, e che però ha prodotto alcune situazioni che è giusto affrontare e risolvere. Ecco, però 6 miliardi in 3 anni per le pensioni non sono spiccioli. Come si è visto nella discussione del DEF, soldi non ce ne sono molti, ci sono, sembra, solo 5 miliardi realmente disponibili per la manovra. Qual è allora l'obiettivo reale? L'obiettivo reale è che con le pensioni in questi anni, grazie alla riforma Fornero, abbiamo risparmiato decine di miliardi, quindi qualcosa che venga restituito ai pensionati per risolvere le situazioni più dolorose, diciamo così, è chiaro che è giusto, è una misura di equità sociale. Sì, adesso sembra molto una caccia al consenso elettorale. In democrazia il consenso fa parte delle regole. Lei dice ci sta, insomma. Naturalmente bisogna... Quindi uno lo può cercare che... in qualunque momento, dice giustamente. Ecco, bisogna fare in modo che il consenso sia lungimirante, però dentro, ripeto, se la vediamo in una prospettiva pluriennale, dentro un intervento strutturale che c'è stato sulle pensioni, per cui diciamo, sì, questo in è chiaro, prospettiva il nostro sistema previdenziale... Certo, se non ci sono tracolli di tipo economico, ma in prospettiva il nostro è diventato uno dei sistemi più solidi d'Europa. Dentro questa solidità alcuni elementi di aggiustamento ci stanno. Sono giustizia sociale, dice lei, ma non le sfugge però la drammatica situazione dell'occupazione giovanile. Perché ai giovani non sono rimaste praticamente neppure le briciole del mercato del lavoro? Perché? Per i giovani è stata fatta una cosa importante come il Jobs Act, che come abbiamo visto ha prodotto centinaia di migliaia. Sappiamo di anche lavoro. Quanto è costato ogni singolo posto di lavoro. Beh, attenzione però, è costata la parte diciamo degli incentivi, ma gli incentivi cosa sono? Riduzione di un eccesso di tassazione sulle imprese e sul lavoro. È un po' paradossale questo, cioè dice avete speso un sacco di soldi, abbiamo speso un sacco di soldi per ridurre la tassazione sulle imprese e sul lavoro, sul quale siamo primatisti europei, cioè non c'è dubbio. Che tassa di più l'impresa e il lavoro è l'Italia, dopodiché non c'è da meravigliarsi che ci sia una difficoltà a creare nuovi posti di lavoro. Certo, il problema vero degli incentivi dati è che devono diventare strutturali, ma invece cioè non per adesso sono temporanei. Sì. Allora noi dobbiamo ridurre la tassazione, quindi quello che è stato cominciato col Jobs Act e che deve diventare strutturale, deve diventare strutturale. E per farlo diventare strutturale ci vogliono tanti soldi. Sì, tanti. Senta, questa radio, naturalmente la radio del Sole 24 Ore, da sempre vicina alla realtà produttiva del paese, ovviamente per vocazione. Gli imprenditori che cosa si devono aspettare? Perché va bene, come dire, i pubblici impiegati, va bene i pensionati, però gli imprenditori? Gli imprenditori si devono aspettare che vada avanti il percorso cominciato in questi anni di riduzione di questo eccesso di pressione fiscale su imprese e lavoro. L'abbiamo fatto appunto con gli 80 euro che comunque, anche se non è... Beh, e gli 80 euro non è che hanno dato un impulso così grande alla spesa? Hanno ridotto il famoso cuneo, perché hanno rimesso un po' di soldi in tasca ai lavoratori. Questi soldi hanno per 2/3, certificato dalla Banca d'Italia, hanno aiutato i consumi. Ma quei 10 miliardi l'anno usati per un riordino delle aliquote IRPEF non sarebbe stato meglio? Purtroppo non si sarebbe concentrato su quelle fasce di reddito, perché come lei sa le aliquote IRPEF di base ce l'hanno tutti, sono numeri talmente vasti che se dispersi su tutti i contribuenti IRPEF producono la famosa pizza all'anno, certo, o al mese. Senta, senatore. Invece così li abbiamo concentrati sulle fasce di reddito più in difficoltà. Lei, senatore Tonini, è presidente della Commissione Bilancio. Ha sentito il ministro dell'Economia Padoan, ci sono state polemiche molto forti sulle stime della crescita. Ma lei crede all'ottimismo del governo? È un ottimismo fondato? Il governo ha preso un impegno programmatico di far crescere l'economia l'anno prossimo dell'1%. Io penso che un governo che avesse un'ambizione inferiore sarebbe un governo da mandare a casa. L'ambizione naturalmente, però il governo è stato molto criticato da Banca d'Italia, dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei Conti. Banca d'Italia e Ufficio parlamentare del bilancio hanno detto: non ci siamo con l'1%. Hanno detto bene l'1%, però vogliamo però capire realistico con quali misure lo raggiungete. Vabbè, adesso al di là questa dell'eleganza, è la questione aperta di qui alla fine del percorso della legge di bilancio. Sì, cioè, tornerà, fare in modo, tornerà in Senato, alle Camere, no? Il ministro Padoan per questa sera sarà da noi a Camera e Senato, quindi riferirà di nuovo, ma diciamo è un'altra tappa in un percorso che è lungo, perché la legge di bilancio è una maratona, come è noto, che finisce alla vigilia di Natale, quindi abbiamo da qui alla fine di Natale qualcosa per fare in modo che questo risolverà. 1% sia un obiettivo realistico. Renzi dice che la discussione sullo 0, appunto, sono discussioni spassose, però è su quei decimali che si gioca la flessibilità che ha chiesto l'Europa, ma in fondo non era meglio, visto che di deficit si tratta, andarci un po' più piatti? Noi camminiamo tra due burroni su uno strettissimo crinale. Un burrone è la crescita troppo bassa o addirittura il rischio della recessione, e questo va alimentato con la spesa pubblica per impedire di finire in quel burrone. Però l'altro burrone è il default del debito, che noi siamo il paese europeo che ha un debito più pesante, e quindi la strada intermedia è molto sottile, però e bisogna seguirla con imprudenza. Però c'è chi ha sforato anche molto di più e non è capitato niente di grave. A meno debito di noi. Vabbè, e basta quello per dire non vale la pena? Se uno è indebitato fino al collo fa più fatica a trovare i creditori, no? Quindi noi dobbiamo stare su un percorso, diciamo così, di affidabilità dal punto di vista del bilancio. Nello stesso tempo dobbiamo cercare di fare crescita, quindi tutte le risorse che abbiamo utilizzarle al meglio. Senta, le faccio un'ultima domanda. Le riforme dovrebbero essere il moltiplicatore. Il moltiplicatore, cioè, certo. Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei è un parlamentare, avete grandi responsabilità naturalmente verso le generazioni future. La spesa pensionistica, l'abbiamo detto, il rapporto al PIL dopo la Grecia, e sottolineo dopo la Grecia, è la più alta d'Europa, malgrado si siano fatte misure di aggiustamento sociale, diciamo così, a sfondo sociale. Come si fa a progettare il futuro se la spesa sociale è quasi prevalentemente per gli anziani che non lavorano più? Questo è uno dei grandi problemi, diciamo così, di metabolismo della società italiana. Sono questioni di lunghissimo periodo, perché se noi italiani abbiamo accettato l'idea che si potesse andare in pensione a 40 anni, certo, e milioni di italiani sono follemente andati in pensione a 40 cui anni. Non ci sia un pensionato baby che non, ovviamente non ha fatto nulla di male, se non quello di utilizzare una legge che c'era. Certo. E questa ha creato una famosa gobba, cui appunto abbiamo utilizzato una quantità impressionante di reddito nazionale per questo tipo di lusso che ci siamo consentiti e che adesso ovviamente le nuove generazioni non possono più consentirsi. Quindi c'è stata la stretta, che è stata violenta perché è stata immediata. Ha creato qualche problema che va gestito nella fase transitoria, perché come sempre quando si passa da un regime a un altro c'è qualcuno che resta con le mani nella porta, diciamo, certo, e quindi bisogna aiutare qualcuno a disincagliarsi, i lavoratori troppo giovani. E queste sono le ragioni delle scelte. Purtroppo la politica economica non vive in un mondo immaginario o teorico, ma in quello reale. Questo reale è pieno di condizioni, di condizionamenti dovuti al passato che vanno in qualche modo gestiti, di cui tutti dobbiamo farci carico. Messa così sembra quasi una soluzione impossibile, una strada impossibile, Mario, rapidamente dobbiamo andare in pubblicità. Sì, no, Tony è molto bravo, però poi ci sono, no, come sempre, gli scenari che sovrastano la volontà degli uomini. Mi pare che sia tutto molto chiaro, non devo aggiungere nulla. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms pubblici. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mix 24. Pietrangelo arriva. Cosa ci fai sentire oggi? Buena suerte, buena fortuna. Ammazza. L'alba per andar via. A chi non sa se partire o no, mentre il giorno lo aspetta. Pietrangelo? Allora oggi solo guerrieri in metropolitana, anzi guerriere, avevano lasciato in superficie i loro maggioloni carichi di foglie autunnali, di olio buono, di verdura perfetta per mimetizzarsi nei combattimenti, e se ne stavano a sciamare per i vagoni e i corridoi elargendo bizzarri comandi. Comunque, ha chiamato Valentina, ha chiamato lei, ha voluto questa canzone con un messaggio. Anfibi coi tacchi va bene, ma siamo sicuri che gli elmi poi non schiacciano i boccoli? A chi sposa una fede, ma fede non ha, a chi piangerà. E allora, allora dove andiamo musica oggi, Mario? Andiamo in America. A riflettere su cosa? In America. And the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Had the full of fishing rod and the tackle on our back. Van Morrison, va bene. Allora, come vanno le elezioni americane? Come vanno? È molto interessante. Ma io penso che Trump ha meno perso di quello che dicono. Dunque, allora, il dibattito l'ha vinto, il secondo dibattito. Che ne tragga beneficio non lo so. L'ha vinto chi, dici? Trump, il secondo dibattito l'ha vinto lui. Tant'è che c'era imbarazzo a commentarlo. Tutti i giornali scrivono il contrario. Sì, perché si basano sull'instant poll della CNN, ma non l'hanno letto tutto, perché c'è un numero in mezzo a quell'instant poll che dice che per il 63% di quel focus group in realtà Trump ha ecceduto tutte le aspettative, cioè le ha superate ampiamente. Questo significa che è andato bene. Bisogna leggerli tutti i numeretti in fila. L'ha sparato troppo presto il suo strike, la Clinton? No, non l'ha sparato, aveva la possibilità e non l'ha fatto. La cosa interessante che stanno uscendo, e probabilmente l'effetto poi finale ci sarà secondo me, però stanno uscendo tutta una serie di sondaggi, ne sono usciti 9 negli ultimi 2 giorni, e la cosa interessante appunto è che c'è un distacco tra i 4 punti per esempio politico e gli 11 addirittura del sondaggio di NBC Wall Street Journal. L'unico dato favorevole a Trump costante, devo dire, cioè da sempre, è il sondaggio pubblicato quotidianamente dal Los Angeles Times, che appunto da lungo tempo vede Trump in vantaggio di 3 punti. E io mi chiedo sempre chi abbia ragione tra questi. Beh, certo, ce lo chiediamo tutti. Cioè, alla fine, insomma, alla fine è un testa a testa, sembra. Sembrerebbe, allora, i sondaggi dicono che c'è una caduta verticale di Trump in questo momento e la Clinton è favorita all'80%. Comunque sarà molto interessante per capire quanto valgono i sondaggi, come andrà a finire, sì, perché sì, definitivamente si capirà se misurano. Ricordo il presidente della Macro, Mario Abis, proprio giorno qui ci diceva: attenzione, i metodi di rilevazione sono rimasti sono rimasti al secolo precedente, molto indietro. Lì ci sono cioè c'è uno scenario in cui ci sono veramente gente in gamba che fa queste cose, ovviamente. Però io ho una domanda perenne da quando seguo questa campagna elettorale, cioè dalle primarie sostanzialmente, e cioè se i sondaggi coincideranno veramente con la storia. Sono molto curioso. Infatti, non so se Pietrangelo anche lui ha questo. Ma i sondaggi lo vedremo dopo. No, poi è straordinario immaginare che debba cadere per il sessismo Trump, immaginando da che pulpito. Vabbè, insomma, certo i Clinton non hanno diritto di parola, no? Ieri ho visto un bel servizio al telegiornale, non mi ricordo, TG2, mi sembra che raccontava la storia sesso e potere in America, insomma, è una storia che parte da lontano. Pensa il mito politicamente corretto per eccellenza, certo, i Kennedy. Certo, vabbè, sappiamo che... Le biografie di Kennedy, quelle buone, sono piene di cose pazzesche. Non c'era la rete, c'erano meno media, si controllavano più facilmente. Salamino. Si chiamano Iskander e sono missili. Sono in grado di trasportare testate nucleari. Sono a Kaliningrad, che è l'enclave russa sul Baltico, e dunque sono un pelo dalla Polonia e sono missili in grado di raggiungere Berlino in un soffio, e servono a far chiaro un concetto, e cioè che Mosca è pronta per la mossa del cavallo. L'Europa parla con Angela Merkel, ma il segnale è diretto agli Stati Uniti d'America, il cui livello di tensione ormai ricorda le giornate del 1962, cioè la crisi di Cuba. Le sanzioni economiche contro la Russia, volute dall'amministrazione americana, hanno avuto inizio il 12 settembre 2014. L'Europa si è accodata, con gravi danni economici e commerciali per se stessa, e appunto tremendi. E malgrado ciò, il governo tedesco torna a bomba, è il caso di dire, valutando nuove sanzioni. L'oggetto del contendere ufficialmente qual è? È la Siria, dove Vladimir Putin ha ormai il controllo dei cieli grazie al sistema antiaereo, cioè sono altri missili che non consentono agli americani di mostrare il musetto tra le nuvole. E però c'è il Baltico. Si chiamano appunto Iskander i missili, e il dettaglio non è irrilevante. Iskander è il nome arabizzato di Alessandro il Macedone, il condottiero che fu discepolo di Aristotele, che fece epoca disegnando con la geografia un destino universale. L'altro suo nome nella lingua degli indoeuropei è Sikander. Ora, noi ne abbiamo memoria grazie a Kipling, quando ne raccontò i riflessi indiani in un libro bellissimo che è L'uomo che volle farsi re, con Sean Connery poi nella versione cinematografica. Dai missili a Kipling, non sì, dico ma altro. Il dettaglio è fondamentale, perché lì è il sangue che parla quando si dice il dettaglio. Allora, che cosa succede? Che l'Europa e l'Occidente hanno sul collo Sikander, ovvero Iskander, dunque Alexandros, l'uomo che fece dottrina con Aristotele, teologia, non si respira più, con bicorne. Però che cosa succede? Che l'Europa torna finalmente a se stessa. Occidente marameo. Mi sono ricordato una frase di Kipling, la dovevo citare pure io, a proposito di est, eccetera. Sciocco è colui, sciocco è colui che tenta di forzare l'Oriente. Questo era Kipling. Devo dire che aveva ragione. Due modi di dire la stessa cosa. Una bolla veloce sulla paralisi del Parlamento. Sì, direi di sì. Dai, che bella chitarra. Anche una bella batteria. Joy Division Digital. Allora, sì, l'hai evocato tu. Il Messaggero stamattina aveva un titolo che era giusto sulla cronaca, cioè referendum paralisi nel PD, era il titolo d'apertura. Solo che poi ci ho pensato e ho detto no, ma in realtà ad essere completamente fermo è il Parlamento. Vi faccio un elenchino di cose leggermente importanti, non moltissimo in effetti. La legge annuale sul mercato e la concorrenza, la riforma del codice di procedura civile, la riforma del codice di procedura penale, la riforma del lavoro autonomo e della responsabilità professionale, la riforma degli ordini professionali, sono solo alcune delle cose di cui sul radar è sparita completamente la traccia. Quindi noi abbiamo uno scenario che è così fatto: si discute di un referendum che servirebbe nelle intenzioni a sbloccare, a velocizzare i lavori del Parlamento, e nel frattempo lo stesso Parlamento è bloccato, si ferma. E come hai detto tu stamattina, Extraterrestri. Extraterrestri. L'abbiamo detto oggi tre volte. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Arrivato una mattina col fumo nero della notte prima. Percorrono in lungo e in largo lo stivale, collegano nord e sud, superano gli Appennini, passano per lo stretto. Sono i treni italiani, Espresso Intercity regionale, Pendolino, Eurostar e ultime nate le frecce, bianche, rosse, mille. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario. Si inizia con la Napoli Portici, 1839, prima ferrovia d'Italia. A viaggiare una minoranza, ma quei 7,25 km bastano per innescare il processo. E dopo la stagione dei trafori alla fine dell'Ottocento, con 15.000 km, la rete ferroviaria italiana è già a buon punto. Poi c'è la stagione del fascismo e dei treni in orario. Arrivi treno, portami lontano. Con la guerra le ferrovie sono uno snodo strategico e per questo diventano obiettivi da bombardare. Nel dopoguerra i treni della speranza portano gli emigranti da sud a nord, verso l'Europa, verso il miraggio del lavoro. A quando arrivi treno? Poi Bologna e il rapido 904, Viareggio e la Puglia, stragi nelle stazioni e incidenti mortali. E ancora la lotta contro i treni e le proteste no TAV. E anche la satira e la politica viaggiano in treno. Campagna elettorale, vero? C'è chi più ha nave, c'è chi più ha pur. Io ho preso il treno. Mi mancava, ero il presidente operaio, il presidente imprenditore, il presidente ferroviere. Non avevo immaginato di riuscire a diventarlo. Capito Malteni era un ferroviere. Insomma, raccontare la storia dell'estate di ferro significa raccontare la storia d'Italia. Ecco, i giorni della storia lo faremo dopo il giornale radio. C'è un aggiornamento rapidissimo. Sì, molto rapido e molto importante. La banca russa VTB ha annunciato che il suo quartier generale lascerà Londra. Città candidate saranno primo effetto della Brexit. Sì, Francoforte, Parigi e Vienna. Benissimo. Non c'è Roma, non c'è Milano. Anche questo vabbè, è un altro domani aspetto. Ne parliamo, faremo la puntata sulla Brexit. Sì. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, luglio 2016. Comparazione dell'effetto del Tai Chi rispetto alla terapia fisica per l'artrite di ginocchio. L'artrite di ginocchio, un tempo conosciuta come il ginocchio della lavandaia, erano le lavandaie che lavoravano nell'umidità, nell'acqua, in mezzo a situazioni difficili perché dovevano stare piegate per un mucchio di ore al giorno, questa artrite ha poche terapie efficaci. Si è allora provato con il Tai Chi, comparandolo con le tradizionali terapie fisiche, magneto, laser e compagnia dicendo. Il Tai Chi è una forma di ginnastica, l'avrete vista, quegli anziani, soprattutto orientali, che fanno degli strani e lenti movimenti, magari su una gamba sola, ma è una forma di ginnastica che certamente si sa che promuove l'equilibrio, il tono muscolare, la funzione fisica in generale, e ha poi una componente psichica che permette di aumentare il benessere in generale. Allora cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno comparato due sedute di Tai Chi per settimana, per 12 settimane, contro due applicazioni per 6 settimane di terapie fisiche come appunto magneto, laser, eccetera, seguite poi da altre 6 settimane di esercizi fisici e basta. E si è visto che misurando l'indice di funzionalità del ginocchio con apposite scale più la funzione fisica, ma anche la depressione e l'utilizzo di altri farmaci e la qualità della vita, i risultati erano sovrapponibili. Allora consiglio a tutti un po' di Tai Chi, che magari fatto all'aria fresca in un bel parco vi aumenta anche la serotonina in testa e la voglia di camminare perché il ginocchio funziona meglio. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Da oggi sì che è lecito ogni colore di nostalgia di quella stagione in cui, seppur assolati, eravamo ancora all'oscuro di tutto. Raffaele Gualazzi, L'estate di John Wayne. Dopo un giorno farà un film soltanto per noi. scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate, ed anche John Travolta per ballare con te.